Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Anche oggi, amici di Blu Radio Veneto, l'appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al direttore Carlo Garofolini, che è con noi al telefono. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora, l'argomento che tocchiamo oggi prevede delle problematiche, insomma, di queste bollette che arrivano a casa, magari perché uno ha prima effettuato un contratto, poi lo disdice normalmente, però alla fine ti arrivano sempre i conti da pagare. Succede questo? I conti, Francesco, ma anche le sorprese. Succede esattamente questo. Abbiamo avuto diverse segnalazioni proprio di persone che in passato avevano sottoscritto dei contratti a pagamento per quanto riguarda servizi privati, in questo caso anche rivolti a un'utenza di adulti, i famosi comunque contratti per i TV, e a distanza di anni le persone, magari avessero spedito la comandante, restituito le tessere e convinte di poter stare tranquille, si trovano con dei solleciti di pagamento anche che vanno oltre i 1.000 e 2.000 euro. Ecco, questa cosa è particolare perché appunto di solito quando si disdice un contratto lo si fa proprio con raccomandata, quindi carta canta, c'è cioè la raccomandata che dovrebbe garantire il fatto che uno ha chiesto la disdetta, invece probabilmente non è proprio così. Allora, è sempre buona norma quando si decide di fare una disdetta inoltrare una raccomandata con ricevuta di ritorno. È anche vero che un fax con la ricevuta della trasmissione avvenuta regolarmente ha lo stesso significato, anche se richiedono una raccomandata. Non è il caso della PEC, perché la PEC, anche se sostituisce la raccomandata di fatto, ma ha valore solamente con certi enti e con le pubbliche amministrazioni. Sì, la PEC, lo diciamo perché magari qualcuno non lo sa, è la posta elettronica certificata. Sì, scusa, come hai detto te, c'è questa posta che è ancora il precedente governo, in un'ottica di semplificazione, aveva istituito allo scopo di sostituirla alle raccomandate. In realtà poi non è andato proprio così a buon fine, anche se comunque dei significati hanno e li utilizzi anche, ma non certamente tra privati, ma solamente, come detto, con le pubbliche amministrazioni. Però nel caso delle pay TV per adulti, come detto, è una cosa incredibile. Ci sono molte segnalazioni in Italia di questo tipo, e ricevere di questi tempi di crisi anche solleciti di pagamento, no, che possono arrivare fino a 2.000 euro, certamente non rende sereni questo tipo di persone che fortunatamente non hanno esitato a rivolgersi all'Adico e che ha messo subito in moto la propria struttura legale per contestare e anche invitare proprio i consumatori a non pagare nulla di quanto. Quindi questo vi sta capitando, come procede l'Adico allora in questi casi? Innanzitutto noi, quando capitano queste cose, segnaliamo l'accaduto all'autorità garante della concorrenza e del mercato, perché abbiamo il sospetto, senza tanto sospetto, che si tratti di una pratica commerciale corretta, e attendiamo quindi un'istruttoria dove questa venga confermata. D'altro canto tranquillizziamo i consumatori, perché nel caso che accadano queste cose di solito l'ufficio l'Adico prende in gestione tutta la pratica, contesta interamente il dovuto e invita anche l'azienda a non perseguire in questo tentativo, che riteniamo sia più di estorsione che non dovuto. Certamente pensiamo, abbiamo il sospetto, che tentano di richiedere i solleciti di pagamento, convinti che magari molte persone inviano le raccomandate di disdetta e dopo magari perdono la documentazione, perché anche qui ricordiamo che è sempre importante conservare tutte le documentazioni anche quando si disdicono i contratti per almeno 5 anni, anche se sarebbero consigliati a volte 10, ma almeno i 5 anni, ecco, cerchiamo di conservarli. E poi certamente, come detto, ci auguriamo che il garante della concorrenza, essendo che di queste segnalazioni in tutta Italia ce ne sono molte, possa intervenire per porre fine a questa vicenda che, insomma, riteniamo alquanto incredibile. Sì, diventano proprio delle riscossioni di serie, proprio per cercare di vedere, di tirar su soldi, insomma, alla fine. Ma bisogna dire, Francesco, che in questo periodo di crisi i tentativi di far soldi, più che essere sempre di più, sono anche sempre più sofisticati e anche tecnologici, perché oggi penso che molti anche dei nostri ascoltatori sia capitato di ricevere pubblicità e solleciti di pagamento non solo per email, ma addirittura arrivano per SMS, per il cellulare, se no sì, le famose telefonate a casa, per cui ecco, desistete da queste intimidazioni e anzi, come dico sempre, segnalatelo. Noi ricordiamo che l'Adico comunque è aperta anche tutto il mese di agosto, quindi qualsiasi persona o utente che si trova nei dubbi di trovarsi in condizioni che insomma siano poco chiare, poco trasparenti, penso che una telefonata possa veramente in questo senso allungare la vita. Sì, e come dire, e regalarci un po' di respiro in questa estate. Che, questa estate di tasse poi. Sì, assolutamente. Carlo, tu hai detto che l'Adico è aperta, ricordiamo anche il sito internet. Sì, allora innanzitutto ricordiamo che l'Adico è aperta da lunedì e venerdì dalle 9 alle 19, e chiuso solo durante la pausa pranzo. Il sito è www.associazionedifesaconsumatori.it, oppure c'è sempre anche l'indirizzo mail info@associazionedifesaconsumatori.it e il numero di telefono che in internet ci possono reperire facilmente. Carlo, intanto ti ringrazio, l'appuntamento con l'Adico è tra due giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.